Valentino ha chiamato da Brindisi, buongiorno. Grazie dottor Garanzini per avermi chiamato. Volevo tornare sul discorsetto della partita del Chelsea che ha perduto in casa 3-0. A questo punto di queste sorprese enormi, già due settimane fa anche il QPR, capolista della Serie B inglese, ha fatto la stessa. Praticamente vorrei cominciare a pensare che non è da escludere qualche combine, perché squadre famosissime come il Chelsea, come l'Inter in Italia, il Milan, il Real Madrid, eccetera, vengono giocate alle scommesse in tutta Europa. Quindi basterebbe far crollare una di queste, che generalmente tutti gli appassionati conoscitori di totocalcio, di scommesse, le considerano delle fisse. Basta far crollare una di queste e sono miliardi di euro praticamente. Che pensar male non è un bene, però qualche volta ci azzecca. Naturalmente questo discorso non lo farebbero mai, e nemmeno io, verso la metà o la fine del campionato, ma quando il campionato non è ancora al giro di boa, ci sta tanto tempo per recuperare, quindi non mi meraviglierei, perché anche 3 domeniche fa, io sono un appassionato di piccole scommesse, non gioco mai più di 2 euro comunque, e anche l'Horsens, una squadra capolista della Serie B danese, ha perduto in casa, guarda caso, 3-0 con una delle ultimissime in classifica. Cioè praticamente non è proprio tanto cattivello pensare a qualche combina a questo punto. Ne pensa lei, dottor Garanzini? Ma non me lo faccia dire, perché io già lo lascerò andare avanti un paio di minuti abbondanti, cosa che in genere non succede, comunque non è così frequente. No, non lo penso in concreto, non lo penso per il Chelsea di domenica. In generale il discorso che lei ha fatto, oltretutto molto, molto documentato, molto lucido, molto ben rapportato alle tempistiche, cioè le fasi ascendenti di un campionato, i momenti che non possono ancora essere i momenti della verità, insomma le fasi non decisive, certi punteggi rotondi indubbiamente, perché immagino che tre, non, già la vittoria, ci ha detto Fabio che era 15 la vittoria del Sunderland, a me 15 sembra un po' tanto, ma supponiamo che qualche picchietto la desse a 15, ma 1-0-3 altro che a 15, ragazzi, sarà stato chissà a che quota stratosferica, qualcuno potrebbe anche essere incolosito. Dato che nel mondo tutto è già accaduto e queste cose sono già accadute, io ripeto, non credo che sia come dice lei, ma ho sentito assurdità ben maggiore di quella che lei ha pronunciato.